Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Ed eccoci di nuovo in diretta qui su Radio Sonata. Siete ritornati all'ascolto della radio che più suona e più suona. Il primo brano di questa sera l'abbiamo già ascoltato, ma subito iniziamo a interagire con i nostri amici di nonsoloturisti.it, e questa sera ne abbiamo uno molto speciale che ci ha fatto scoprire delle cose stranissime. Ci ha parlato di serpenti, di case sugli alberi e di quant'altro. Lui è Luigi Lazzaroni. Ciao Luigi, buonasera. Ciao anche a te Beppe. Allora Luigi, io in anteprima di trasmissione ho parlato con i nostri radioascoltatori e ho pronunciato questa strada, questa Route de Muerte, però io prima volevo partire da te e individuare geograficamente dove si trova questa strada e in quale parte del mondo questa volta ci porti. Vi riporto in Sud America, però non più in Perù, ma in Bolivia. Uh-huh. La ruta della Muerte, quella che abbiamo fatta, è in pratica dalla Paz, è la strada che va dalla Paz e scende giù nella foresta amazzonica, uh-huh, passando attraverso le Ande. Questa è la strada, la ruta della Muerte. La chiamano la strada, la ruta delle Yungas. Le Yungas sono le parti basse, diciamo, delle Ande, dove si coltiva la coca. Ah, ok, quindi è un bellissimo posto già per questo. No, è bellissimo perché le foto sono molto caratteristiche. Però io con te Luigi volevo proprio partire. Come abbiamo pianificato questo viaggio? Cioè, come l'hai pianificato questo viaggio? Siccome eravamo già andati, io e il mio amico Gigi, eravamo già andati, diciamo, nella foresta, appunto, a Iquitos, in Amazzonia. Mm-hmm. Volevamo tornare comunque a vedere la foresta, ma fare qualcosa di diverso, e niente, io ho visto la ruta della Muerte, mi sono informato, mm-hmm, e ho detto è una roba giusto per gente che ha 20 anni, 25, noi ne abbiamo il doppio, va benissimo, e abbiamo deciso di andare lì. Ok, quindi pronti, partenza, si parte, si prende un aereo e si arriva subito in Bolivia, no? No, non funziona così. ci vogliono almeno 2 o 3 cambi. In genere vai o a Madrid oppure Parigi, poi dopo fai il cambio. Abbiamo fatto in pratica Parigi, Milano-Parigi, Parigi-Bogotà, Bogotà-La Paz. Ah, okay. Queste sono, insomma, ti va via una giornata di voli e attese varie. Ah, ok. Ma geograficamente la Bolivia dove la possiamo identificare? Per far capire un po' pure il territorio come i nostri radioascoltatori. Perché io ho letto l'articolo, però per chi ci sta ascoltando in questo momento e non ha letto l'articolo, non sa proprio di che cosa stiamo parlando, diamo anche una spiegazione. Perché tu nell'articolo l'hai scritto e quindi io te lo voglio fare anche dire. Allora, la Bolivia sta in Sud America, diciamo che sta sotto il Perù, di fianco al Cile, ed è circondata dal Brasile. In pratica il grosso della nazione è all'interno delle Ande, uh-huh, la chiamano il Planalto perché è attorno ai 4.000 metri mediamente, e poi un'altra grossa parte invece scende giù dalle Ande nella foresta amazzonica, e quindi è fatto un po' c'è in effetti una divisione anche, mi sono accorto poi dopo anche stando lì, a livello anche di popolazione c'è, come al solito, come dire, distanza e anche un momentino di nervosismo tra chi abita la pianura, in pratica, e chi abita le montagne. E quindi è una nazione divisa in due, tra la parte alta, che dove abitano ancora, se vuoi, i campesinos, i discendenti degli Incas e degli spagnoli, e la parte bassa invece, che va più nella foresta amazzonica. E ci sono diciamo ancora indios, anche se sono ovviamente pochi, poi ci sono tutti i coloni chiaramente. Quindi questa è la Bolivia. Poi naturalmente si arriva, però vi eravate preparati tutto perfettamente, cioè siete atterrati, quindi ci siamo presi, diciamo, una stanza, tu con il tuo amico, e però succede qualcosa durante la notte. Che cosa succede? Sì, sì. Allora, la prima cosa è che tu, quando sei sull'aereo e stai per atterrare, sei davanti, normalmente c'hai il video, lo screen, no, sul sedile di fronte, uh-huh, dove ti dà l'altezza, in discesa, eccetera, 5.000, 4.500, ha cominciato a cacciare fuori le ruote, l'aereo come a 4.500, morale è a 4.000 l'aeroporto, io non ci avevamo pensato, quindi l'aeroporto atterri ed è a 4.000 metri d'altezza, è il planalto, e si vede dalle foto che ho fatto, che c'è anche lì sull'articolo. Sì, la seconda foto, dopo la foto di copertina. Sì. È fatto tutto di casupole, in pratica lì ci abita la povera gente a 4.000 metri. La gente che sta un po' meglio sta, diciamo, in città, che è giù, è sotto, è proprio in un burrone sotto il planalto. Lì c'è la città, il centro di La Paz, che comunque stiamo parlando di 3.500, 3.800, noi eravamo attorno ai 3.800 a dormire. Allora, per prevenire eventuali problemi, come dire, di altitudine, eccetera, abbiamo preso pastiglie, quelle contro il mal d'altitudine. Solo che sostanzialmente questi sono dei diuretici. Morale, facevamo turno andare in bagno, io e il mio amico ogni mezz'ora eravamo lì ad andare in bagno, e a lui è venuto una colica, evidentemente. Ecco, per cui tu immagina, non eravamo in albergo, abbiamo preso una stanza, un bed and breakfast, per cui alla una di notte, alla pass, con uno che ha la colica, a cercare un dottore, un qualcuno per poter fare qualcosa. Però insomma, ce la siamo cavata. Diciamo che abbiamo trovato una clinica, abbiamo telefonato prima la nostra assicurazione, c'è stata un'indicazione alla clinica, eccetera. La clinica, il dottore ha detto bisogna fare questa iniezione, eccetera, parlava solo spagnolo. Lui ovviamente l'iniezione non la voleva fare perché non era suo compito. La prima infermiera ha fatto tre buchi, non è riuscita a fare l'endovena. Ci ho provato anch'io, perché vabbè, di lavoro facevo qualcosa di simile, sono riuscito, sarà stata l'emozione. Poi è arrivata giù un'altra infermiera con la mascherina, evidentemente era di una sala chirurgica, probabilmente ha fatto l'endovena, lui è stato un po' meglio, ci siamo guardati, ormai erano le 3:30, ci siamo guardati e dico era ruta, e lui mi fa, e se proprio vuoi, e io sono andato ovviamente, e lui è stato lì a fare, come scrivo, fare il giro delle cliniche il mattino dopo. Però sai che facciamo, Luigi? Tu ora ci racconterai la route, però prima ci andiamo a fare una piccola pausa pubblicitaria, ci ascoltiamo un brano, cioè gli Imagine Dragons con Zero, e poi ritorniamo in diretta qui su Radio Stonata con il nostro Luigi, che ci racconterà perché voi direte non ci sarà andato. No, ci è andato, se l'ha detto, quindi l'ha fatta, e quindi ce la faremo raccontare tra pochissimo qui sulla radio che più stona più suona. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E loro sono gli Imagine Dragons qui su Radio Stonata con Zero, pronuncia perfetta del mio inglese maccheronico alla grande. Però ritorniamo in diretta qui sulla radio che più suona più suona, e siamo con il nostro Luigi che ci stava raccontando il suo viaggio in Bolivia, per l'esattezza sulla Route della Muerte. La pronuncia anche qua è dei migliori, però. Luigi, ne stavamo parlando fuori onda e io ti ho chiesto da profano di queste altitudini, e soprattutto ti chiedevo perché avete preso questi diuretici, e soprattutto la domanda mi è nata perché, ricordiamo a chi si è collegato adesso in diretta qui su Radio Stonata, Luigi ha affrontato la Route della Muerte con un suo amico, però hanno preso dei diuretici e all'amico i diuretici hanno provocato delle coliche e quindi poi tutte le conseguenze, e io gli chiedevo ma è obbligatorio prenderle questi diuretici? Luigi, a te la spiegazione. Beh, no, non è obbligatorio. Diciamo che il mal di montagna può venire, può anche non venire. Nell'altra volta, in un altro giro che ho fatto, ti dicevo prima, a Cusco, che sono 3.400, non ho preso niente, non ho avuto nessun problema. Però lì, eravamo alla passa, 3.800, 4.000 metri, il giorno dopo dovevamo fare appunto la ruta della muerte e si sale per partire 4.007 praticamente. E loro abbiamo detto, vabbè, onde non correre rischi di mal di montagna, di avere emicrania, grossi problemi, diciamo mal di testa, abbiamo detto prendiamo le pasticche, poi siamo tranquilli. Non le avessimo prese non so cosa sarebbe successo, magari niente. Avendole prese lui ha avuto quel problema lì, però ripeto, poi dopo siamo andati, dopo questo, dopo la ruta della muerte, siamo andati un'altra settimana, come dicevo prima, nella foresta in Amazzonia, lui è stato bene, alla fine l'ha rifatta la ruta della muerte anche lui, uh-huh. E felice e soddisfatto. Però, insomma. Però aspetta, prima di introdurci alla ruta della muerte, cioè tu la notte l'hai passata in bianco, alle 6 del mattino ti alzi e che fai? Sono andato appunto, allora lì era tutto, da lì in avanti era tutto organizzato, uh-huh. Nel senso c'era un ritrovo a un caffè famoso lì dove c'è l'organizzazione, una delle organizzazioni, perché sono ormai una dozzina che sappia io, uh-huh. I tour operator che organizzano queste discese. Quel caffè lì, ripeto, tutta gente sui 20 anni, 30 anni, c'erano tedeschi, c'erano argentini, c'eravamo noi, c'erano inglesi, insomma eravamo in 14 sulla Racing Phoenix, siamo partiti, uh-huh. E da lì col pulmino si parte il pulmino dalla pass, uh-huh. Perché c'è da salire dai 3.800-4.000 pass fin su, in pratica al passo, dove c'è una laguna, c'è un laghetto, uh-huh. Ed è a 4.600-4.700 e si parte da lì, si prendono le bici, sono bici però molto ben curate da mountain bike, effettivamente sono ben curate, addirittura chiedono con che mano si frena solitamente, eventualmente ti cambiano il freno dalla parte giusta, il freno quello più potente dalla parte giusta, insomma curano molto queste cose qui. E poi da lì si parte, si va in giù, seguiti, ci sono tre di loro che seguono in bici, che tra l'altro lo fanno tutti i giorni, come tutti i giorni fate sta roba qui, sì, il nostro lavoro è questo. Tutti i giorni vanno avanti e indietro dalla pass, su, giù, giù, su, giù, cioè diventano scemi, secondo me, però lo fanno tutti i giorni. E insomma si parte da lì, da 4.700 circa. La visibilità comunque dalle foto non era delle migliori, c'era la nebbia. Allora, quando siamo andati noi c'erano nuvole sulle cime lì attorno, però non c'erano problemi, uh-huh. Da questo punto di vista. Quando l'ha fatta poi dopo da capo il mio amico, io l'ho fatta con lui, ma la seconda volta l'ho fatta, io sono stato sul pulmino, uh-huh. E lui invece l'ha fatta. Quando l'ha fatta lui, giusto perché lo scrivo anche in fondo, siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, sui 4.006 della partenza nevicava di brutto, per cui hanno deciso di spostare la partenza più in giù, attorno mi pare 3.008 era come partenza, uh-huh. E da lì in avanti ha preso tanta acqua e vabbè, però era contento alla fine anche lui, uh-huh. Questo vedi, basta poco per essere contenti. Però è molto, cioè diamo un po' la descrizione appunto di com'è questa strada, Luigi, ai nostri radioascoltatori. Sì, allora la prima parte, allora diciamo così, la ruta della muerte era la ruta della muerte quando ci andavano su le macchine e i camion, perché effettivamente in certi punti è strettissima e c'è l'ira di Dio ci sono croci lungo la strada, se vai a vedere su YouTube, vai a leggere, sono morte tantissime persone quando ci passavano i camion e le macchine, uh-huh. Adesso hanno costruito sull'altro lato della valle una strada nuova, per cui diciamo auto e camion vanno sulla strada nuova asfaltata, e questa qui, che è una strada non asfaltata, sterrata, in pratica è percorso ormai solo dalle bici. È una strada, dal mio giudizio, non è pericolosa più di tanto, dipende dalla velocità con cui tu la fai, insomma. Se uno la prende allegramente deve stare attento, sicuramente. Se uno la prende con molta calma non ha problemi, però si perde anche il gusto di fare la strada. Però non è, non è così pericolosa come lascia intendere il nome, però è molto bella da fare, è molto bello il panorama soprattutto. Ah, ho capito. Però l'altra cosa da dire è che comunque è molto stretta, come hai detto tu, non è asfaltata, però sì. Dicevi pure che c'erano delle guide, comunque pure loro, tre persone pure loro in bicicletta dell'organizzazione. Sì. Comunque immagino che loro ti dicono vai più piano, rallenta, no? Sì, hanno fatto tutta una predica all'inizio, hanno spiegato tutto per bene, e poi c'è una guida che sta in testa, è quella che in pratica guida gli altri, va giù bella veloce, uh-huh. E poi c'è una guida in fondo e un'altra in mezzo che magari serve a fare un po' di foto alle persone, no? Però no, seguono moltissimo, ti dicono, spiegano bene. E avendo davanti la prima guida, se segui lui va veloce dove si può andare veloce, rallenta dove bisogna rallentare, insomma. Ciononostante una ragazza, una cinese americana, si è fatto un bello scivolone, in effetti ho le foto perché io mi ero fermato a far foto su quella curva lì. ed è andato a un metro dal guardrail per andare giù. Ah. Poi dopo, senza nessun problema, ma perché ha fatto la stupida lei, proprio per intenderci, se no non succede niente. Mm-hmm. Quello che è di bello appunto è che a Sterrata poi ci sono cascate d'acqua che vengono giù, non troppo grosse, però vengono giù lungo la strada. Secondo me la cosa più bella appunto è il panorama. Tu parti in alto, ci sono attorno le montagne, sono cime, se partiamo a 4.600-4.700 sono cime più alte, piene di neve, quindi arriveranno 5.000 passa sicuramente. Quindi parti dalle cime, vedi le cime piene di neve, vedi poi c'è tutta la parte ovviamente senza alberi, poi scendi, cominci a entrare in mezzo agli alberi, fai poi tutto un costone infinito, le Yungas, tutto in mezzo attorno è foresta, cioè tu vedi alberi da tutte le parti, vedi le selci, vedi le piante rampicanti, e poi ci si ferma, non è che si fa una tirata unica, perché io ho scritto ci piega un tot di ore andare giù per fare 60-70 chilometri, è perché si va giù, ci si ferma, si guarda, la guida spiega qualcosa, insomma non è fatta per andare giù in sparata, ecco, è anche per godersi la gita. Poi in fondo all'articolo, vabbè, hai svelato tu che poi il tuo amico l'ha rifatta qualche giorno dopo, ma poi una cosa che mi ha incuriosito, che nemmeno io so chi è quello. Dei capi, diciamo, nazisti, è chiamato appunto il Boia di Lione per questo motivo qui, ed è uno dei tanti scappati in Sud America, o in Argentina, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, ed era appunto, questo qui mi diceva appunto che era lì, l'ho stato anche a leggere un attimo, molto coperto dalle autorità come altri, cioè è riuscito a vivere tranquillo, per così dire, perché non è mai stato denunciato, o diciamo la Bolivia non ha mai collaborato più di tanto per andare a stanare questi qui che sono scappati dopo la seconda guerra mondiale. Immagino. Luigi, hai altro da aggiungere? Se no io ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità. No, diciamo che se qualcuno la vuol fare, secondo me è un invito a farla. È molto bello, ripeto, è molto bello il posto dove tu vai. Per il resto, nessun problema. Ok. Io ti ringrazio ancora Luigi per la tua disponibilità e spero di ritrovarti prestissimo qui su Radio Stonata con un altro tuo viaggio da raccontare per non solo turisti.it. Ok, ciao. Ciao ciao, grazie. Ciao. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it